Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Siamo di nuovo insieme, sono le 11.09. Fabio Cantadori regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Come sempre il nostro sommario. La tua pelle ha passato delle buone vacanze? Quando la testa è 3 metri sopra il cielo. Fritti in padella. Bilancio di fine estate, proviamo un po' a tirare le somme, lo facciamo sulla nostra pelle. L'estate lascia il segno, il colore ambrato dell'abbronzatura che ci rende e ci fa sentire più belli, ma anche macchie, rughe, micosi, verruche. E allora, come sempre, cerchiamo di occuparci delle due facce della medaglia, con un occhio al benessere per mantenerla a lungo e un altro a quei piccoli disturbi, segnali di malessere che, se presi in tempo, si risolvono senza lasciare traccia. 824 0024, questo è il nostro numero verde, già attivo, quindi iniziate già a chiamarlo. 349 238 6666 se invece siete più comodi a mandarci un SMS. In studio qua con me due esperti, la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in studio, cosa rarissima devo dire, il professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di Milano. Professore, sono quasi emozionata. Buongiorno, grazie. Dottoressa Serri, allora lei ci aiuterà dandoci consigli e indicazioni sui trattamenti, anche sui prodotti da utilizzare, con la filosofia Skineco, quindi certo, prodotti certo. Che piacciono alla nostra pelle ma che piacciono anche all'ambiente, ci darà consigli per mantenere a lungo sulla nostra pelle il colore delle vacanze o a eliminarlo dolcemente per evitare quell'effetto chiazza e quindi preparando la nostra pelle ad affrontare la nuova stagione. Certo, ora teniamo presente, eliminare l'abbronzatura si elimina da sola perché è causata dall'accumulo di questo pigmento, la melanina, che è prodotto da certe cellule della pelle che si chiamano melanociti sotto stimolo solare. I granuli del melanina progressivamente se ne vanno via mano a mano che la pelle si rinnova, che le cellule dell'epidermide vengono eliminate. Nel giro di 28 giorni circa, questo è il tempo di turnover, cioè di ricambio della pelle, l'abbronzatura se ne va. Quello che noi vogliamo è ottenere che mentre l'abbronzatura se ne va, la pelle rimane bella, levigata, luminosa e non bruttarella, opaca, sfitica, macchie, pruriginosa e secca. Sta un po' guardando la mia, infatti. Ma dovevo venire più mia. Coperta. Guardo anche la mia, Nicoletta. E questo si può ottenere con qualche precauzione e con l'uso di determinati prodotti di cui parliamo proprio oggi. Quindi se volete saperne di più iniziate a chiamarci, ma insieme al professor Gelmetti perlustreremo palmo a palmo la nostra pelle per individuare, professore, segni e magari inestetismi, problemi che l'esposizione solare ha evidenziato, provocato, quindi eczemi, bollicine varie, nei che si sono modificati. Ma sì, bisogna tenere presente che ci sono alcune patologie che rendono più evidente la loro comparsa durante la bella stagione e contemporaneamente altre migliorano, di cui ne parleremo dopo. Però quando la gente esagera, magari con una filosofia di partenza buona per curare una patologia di base che può essere la psoriasi o la dermatite seborroica, se prende troppo sole rischia di slatentizzare alcune altre patologie come le verruche, ad esempio come l'herpes, che in realtà sono negative. Altre cose sono alcune patologie fungine che invece non risentono tanto la luce quanto di ambienti particolarmente umidi, però d'estate è più facile trovarli, chiaramente. Professor Gelmetti, lei ha parlato appunto anche di patologie che con il sole migliorano, la psoriasi, la dermatite seborroica, e con il suo aiuto cercheremo di capire se è possibile come prolungare gli effetti benefici del sole. Sì, è importante sapere che noi in Italia siamo in una posizione geografica intermedia, come si dice, tra l'equatore e il polo nord, quindi possiamo sfruttare almeno 6 mesi di bel tempo. In questo caso bisogna sapere che se noi riusciamo ad avere un'esposizione, ad esempio, anche moderata come tempo, tipo 10 minuti, però una o due volte alla settimana, riusciamo in realtà a portare avanti il beneficio del sole per alcune patologie come quelle nominate, senza avere effetti collaterali importanti. Questo quindi è un bel vantaggio che, ad esempio, gente, i nostri amici del nord Europa ovviamente non possono avere, e il motivo per cui la fototerapia con i lettini è più diffusa per queste patologie. 800 24 00 24, guardatevi con attenzione, cercate di leggere che cosa ha scritto il sole sulla vostra pelle, chiamateci, e se vi garba fateci sapere che cosa intendete fare dell'abbronzatura, agevolare un po' il ritorno al candore per prepararvi all'inverno, e che cosa state facendo. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Prima delle vacanze dicevamo, faccio fatica a concentrarmi perché sono stanco. Adesso però siamo tornati dalle vacanze, freschi e riposati, ma il problema si ripropone. Insomma, è difficile concentrarci, la resa è scarsa, però gli impegni, lo sappiamo, incalzano, i problemi vogliono una soluzione. Allora qua ci vuole un aiutino, e ce lo dà il professor Alberto Oliverio, psicobiologo all'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno professore, bentornato. Tornato. Buongiorno, grazie a voi. Lei è abbronzato, professore? Un pochino sì, direi di sì. Sono stato un po' al sole della Bretagna, che stranamente quest'anno era abbastanza forte, visto il buon tempo sull'Europa. E quindi lo immaginiamo ancora un po' abbronzato. Senta, però, al ritorno dalle vacanze, forse anche lei, che di concentrazione e comunque di cervello se ne occupa da anni, farà come noi un po' fatica. Come mai? Ma sì, perché un po', diciamo, noi siamo abitudinari e quindi qualsiasi cambiamento comporta un po' di riassestamento. Un po' succede come quando andiamo in vacanza, è che i primi giorni siamo un po' spaesati, malgrado appunto il piacere di avere staccato con le attività quotidiane, e poi bisogna abituarsi alla routine delle vacanze. Alcuni sono meno propensi a farlo, insomma, sono più resti a lasciar perdere così le routine giornaliere e adagiarsi in una specie di dolce far niente. E la stessa cosa un po' si verifica quando ritorniamo dalle vacanze, perché abbiamo preso per qualche settimana magari delle routine diverse, ci eravamo adagiati così in ritmi molto più lenti, adesso invece la città e il lavoro ci richiedono di riprendere dei vecchi ritmi. Allora professore, ci aiuta dandoci magari un piccolo piano di recupero? Ma il primo piano di recupero è che non bisogna preoccuparsi, perché il nostro organismo si riassesta, un po' come quando cambiamo fuso orario, fa da solo, diciamo, si resetta senza bisogno di grandi interventi. L'altro aspetto è magari cercare di iniziare a scandire la giornata con alcune occupazioni fisse, insomma, piuttosto che non so, al mattino faccio questo, al pomeriggio faccio quest'altro, magari fare un riposo se è possibile, non riprendere il lavoro di botto, naturalmente la situazione è più facile. Certo, non tutti possono farlo, però chi può autoregolarsi, ecco, invece di tuffarsi nel lavoro freneticamente, oppure di essere sommerso, che ne so, dalle email a cui bisogna rispondere, uno si dà una piccola scaletta di cose da fare quotidianamente e cerca di non esagerare. Quindi si occupa delle priorità e, no, piano piano continua poi ad affollare l'agenda di impegni, ma sì, poco alla volta. Sì, perché in gran parte è un atteggiamento emotivo, uno dice: io non ce la faccio, sono sommerso dagli impegni, cose da fare, bollette da pagare, cose che sono restate in sospeso. In realtà tutto può essere un pochettino dilazionato in giorni diversi, e uno dice: oggi farò questo, domani farò quest'altro, ma aver la pretesa di fare tutto è subito. Senta professore, i nostri ragazzi tra poco riprenderanno la scuola, però loro dovranno mettersi subito sui libri. Qualche consiglio per loro per aiutarli a mettere un po' la testa sul collo? Ma anzitutto c'è un aspetto piacevole del tornare a scuola che stare insieme con i compagni, insomma, quindi c'è anche questo aspetto sì, sociale. Questo lo sanno bene. Sì, rimettere la testa sul collo, beh, anche in questo caso io penso che i docenti sappiano per esperienza che non bisogna all'improvviso caricare di compiti e di cose da fare, gradualmente riprendere, quindi direi che si tratta di imparare una routine, anche in questo caso si tratta un po' di staccare, di imparare a staccare con l'atmosfera delle vacanze e darsi dei piccoli compiti quotidiani in modo da carburare di nuovo, chiamiamo a pieno regime. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Prego, arrivederci. Pronto soccorso. Il sole bacia i belli, immagino quindi che vi abbia strapazzato di baci, ma adesso che la passione si è un po' affievolita facciamo qualche riflessione a voce alta insieme alla dottoressa Serri e al professor Gelmetti. Abbiamo già in linea con noi Berni, che ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a lei e a voi. Senta, non bacio solo i belli, ma bacio anche i brutti. Perché i belli li baciano tutti, dicono, no? Mm. Io ho un problema che espormi al sole, in spiaggia, in giro, così, mi viene l'eritema. Sì. Mi metto delle creme a alta protezione, 50, così, ma sembra di avere una camera d'aria addosso perché, secondo me, la pelle non respira. Non è che c'è qualcosa... delle pastiglie, so io, per contrastare questo eritema. Perché Berni, lei andrà di nuovo al mare. Sì, ci vado col bambino. Ecco. E sono costretto a giocare, costretto, sì. No, perché mi diverto. Siamo qua per soffrire, insomma. Professor Gelmetti. Allora, l'eritema solare è un fatto abbastanza comune. Il problema è che sotto questo sintomo si possono nascondere varie forme, tra cui alcune malattie del connettivo. Quindi sono d'accordo ovviamente con l'ascoltatore che mettere delle creme molto spesse non sia piacevole. E in più, purtroppo, alcune di queste creme, nonostante siano efficaci contro i raggi ultravioletti, non lo sono completamente contro l'eritema solare, perché in alcuni casi l'eritema solare è sostenuto anche da raggi che non vengono bloccati completamente. Per cui prima di impostare una terapia con le pastiglie, come diceva l'ascoltatore, che possono essere più efficaci, ma ovviamente hanno il loro costo in termini di rischio, bisognerebbe fare 2 o 3 esamini per escludere queste patologie. Una volta che queste patologie sono escluse, si può, diciamo, essere più tranquilli e magari prendere in considerazione la somministrazione di antiossidanti o di carotenoidi prima della stagione estiva. Allora, in questo caso la strategia sarà di prendere queste sostanze 20-30 giorni prima del momento in cui sappiamo che dobbiamo andare al mare e per tutto il periodo. Se invece c'è una patologia del connettivo, allora quella la prende in mano direttamente il dermatologo. E quindi, dottoressa Serri, Berni andrà nuovamente al mare, giocherà sulla spiaggia con il bambino, ma invece per molti di noi le vacanze, almeno l'esposizione con il sole, abbiamo chiuso temporaneamente fino alla prossima stagione e ci ritroviamo con la bronzatura. Una bronzatura che, appena tornata in città, ci sembra molto più opaca, bruttarella, per cui viene un po' la tentazione, sì, di eliminarla. Sì, in effetti a poco si elimina anche da sola. Poi devo aggiungere che molto spesso un residuo delle esposizioni solari e dell'uso dei solari, che sono ben lungi purtroppo dall'essere prodotti perfetti, sono ogni anno sono perfezionati, ma sono ancora, secondo me, molto imperfetti, possono dare come effetto collaterale una serie di piccole microcisti, comedoni. Io vedo molte, chiamiamole acne in senso lato, ma pelli imperfette, per cui la pelle, oltre che un po' chiazzata post abbronzatura, ha anche queste imperfezioni simili acneiche, chiamiamole, comunque questi elementi microcistici. Per cui cosa fare? Consiglio l'uso, a me piace molto lo straccetto di microfibra, ma purtroppo in Italia si trova con grossa difficoltà, si trova su internet, però prendendo anche un piccolo asciugamanino di spugna di cotone può andare bene, massaggiarsi bene con un detergente delicato. Se prima si è applicato sulla pelle un olio vegetale, un olio di mandorlo, un olio di jojoba, va ancora meglio. E poi ci si può sottoporre un paio di volte alla settimana, anche da soli, a un piccolo peeling o scrub. Si può usare un acido glicolico, un altro alfa idrossiacido a bassa concentrazione, si può usare da soli in casa, oppure uno scrub anche casalingo, per esempio fatto con bicarbonato di sodio, il bicarbonato proprio che si trova quello, anche al supermercato, sì. Oppure con zucchero, con una sostanza abrasiva, e massaggiare la pelle. Dopo questo trattamento, una bella applicazione di una crema idratante, magari sempre contenente delle sostanze che noi chiamiamo cheratolitiche, cioè che sciolgono quelle che tutti chiamano cellule morte, ma che sono le cellule che si sfogliano dalla pelle, le cellule dello strato corneo, magari contenente una piccola quantità o di acido salicilico o di alfa idrossiacidi. E voilà! E voilà! Siamo pronti, e anche Roberto, che ci chiama da Arezzo, è pronto per fare la sua domanda. 824 0024. Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo porre un paio di domande. Cioè, la prima è, dopo è appunto tornato dal mare. Dove è andato Roberto lei al mare? Io sono andato nel Cilento. Buona scelta. Sì, sì, sì, stava molto bene, al Ciaroli, non so se è presente. Comunque, niente, sono tornato a casa, praticamente mi sono venute sul viso una macchia bianca. Proprio sul mento, praticamente è andata via l'abbronzatura e mi è rimasta questa macchia bianca che non riesco a capire. Dico, adesso andrò al dermatologo ovviamente per vedere un po' come se fosse, come le posso dire, abbronzato al 70%, e invece si è verificata questa macchia bianca proprio sotto il mento. E poi un'altra cosa, sulle braccia mi sono venute fuori delle specie di pustolette che mi danno un po' di prurito, poi chiaramente queste pustolette fanno la crosticina, poi la crosticina va via e rimane come se fosse un'acne. Sì. Ecco, niente, queste due cose qua. Insomma, non hanno fatto bene le vacanze quest'anno, devo dire. Non tanto alla sua pelle. Sì. Professor Gelmetti. Ma cominciando dalla seconda parte, direi che la dottoressa Sera aveva ragione. Certe volte queste forme di furuncolini che possono essere sugli arti superiori o sul tronco sono date all'applicazione di qualche prodotto magari non perfettamente adatto alla propria pelle, anche se ci sono delle forme spontanee. Però bisogna ovviamente, la prima cosa banale, escludere che ci sia un topico, cioè una sostanza che uno ha messo su che le abbia tappato i pori, detto in maniera molto, molto brutale, diciamo. Sì. Invece per la prima problematica, cioè la chiazza più chiara sul mento, questo è interessante perché ovviamente sarebbe meglio vederla, però se la chiazza fosse bianca, bianco latte, però l'ascoltatore dice che in realtà è più chiara, cioè solo il 70%, possiamo escludere al 90% che si tratti di una vitiligine. La vitiligine è completamente bianca e poi di solito non è mai una chiazza ma è simmetrica, per cui è molto probabile che questa chiazza qui sia in realtà la slatentizzazione di una piccola dermatite presente prima dell'estate, che come tale occultata dall'abbronzatura non si vedeva, e squamando la pelle più rapidamente ha fatto vedere che in quella zona già prima di esporsi alla luce c'era una chiazza di infiammazione. Queste chiazze di solito sono o chiazze di eczema molto modeste o chiazze di psoriasi molto modeste, che in realtà vengono guarite dalla luce, ma nel momento in cui la pelle squama più velocemente ovviamente porta via l'abbronzatura, muore Sansone con tutti i filistei, stacca le cellule, ma si staccano anche le cellule imbibite di melanina, e quindi rispetto alla pelle che non si è desquamata, o perlomeno si è desquamata a velocità normale, ovviamente appare il differenziale. E quindi in questo caso va verificato se il paziente abbia, chi più chi meno, un po' di psoriasi, un po' di eczema, perché la vitiligine mi sembra da escludere. Proprio perché la vitiligine, ci ha spiegato, è proprio una chiazza proprio bianca. Bianca, non possiamo sbagliarci. Eccoci, siamo tornati insieme con la dottoressa Serri e il professor Gelmetti. Facciamo un bilancio sulla nostra pelle delle vacanze che sono passate. Andiamo a vedere come sta. Se sta bene, se stava meglio prima, come si dice. Ma stavo riflettendo prima con la dottoressa Serri che sicuramente alla nostra pelle ha giovato anche la libertà. il sole l'ha resa più bella, più abbronzata, ma anche l'essere coperta magari con tessuti più naturali, di solito esatto, in estate lo stare anche più spogliati, nudarelli, un po' nudarelli, ecco. Adesso tocca rivestirci e in effetti quando noi pensiamo alla pelle, a quello che mettiamo sulla pelle, non pensiamo quasi mai ai tessuti, cioè i tessuti degli indumenti che stanno a contatto per così tante ore sulla pelle, e anche alla qualità e purezza di questi tessuti. Adesso anche il professor Gelmetti, che proprio si occupa da sempre, soprattutto nei bambini, di dermatite atopica, di allergia, sa quanto è importante, infatti partecipa anche lui a Skin Eco, la qualità dei tessuti che entrano in contatto con la pelle dei bambini. Noi oggi come dermatologi vediamo sempre più reattività, quindi vuol dire reazioni strane, sensibilizzazioni legate ai tessuti, ai coloranti, agli appretti usati per i tessuti, a tutto quello che viene utilizzato al di là del tessuto per fissare, per ammorbidire, per lavare i tessuti. Le lavatrici di oggi sono... le chiamano a basso consumo energetico, quindi consumano meno acqua, ma vuol dire che sciacquano meno. Bisogna stare molto attenti a sciacquare bene, a fare un doppio risciacquo, perché sennò residua del detersivo, il detersivo sta a contatto con la pelle ed ecco l'irritazione peggiorata poi dal sudore. Compriamo magari l'indumento che costa poco al mercatino, alla bancarella cinese, non voglio parlare male dei cinesi, ma chissà la qualità. La qualità, tanto che io vedo molte allergie e sensibilizzazione anche da indumenti. Che faccia hanno queste qualità. Allergie da indumenti? C'è un arrossamento, c'è un prurito, si vede subito la pelle s'arrossa, prude, dà fastidio e si irrita. Carlo mi può anche aggiungere delle note legate ai bambini, ai pannolini che fanno addirittura i pannolini deodoranti, che è una roba, non so io tu che cosa ne pensi, ma io sì, la trovo allucinante. Il problema è che soprattutto quando il bambino è piccolo è più difficile pensare a un problema da tessuto, perché immediatamente si pensa subito al sudore, si pensa subito alle urine, alle feci, alla bava, eccetera eccetera, e che certe volte ci sono, quindi certe volte abbiamo dei quadri intermedi che sono difficili nell'interpretazione. Ad esempio, quando era di moda usare, come ancora adesso è di moda usare, delle specie di wipes, quelle sono tovaglioline per lavare sederino quando ad esempio non c'è l'acqua, qualche anno fa la qualità era veramente scadente, c'erano degli alcoli, c'erano dei profumi eccetera, e quindi quando si vedeva il sederino rosso si era veramente in grandi difficoltà a sapere se era un sederino rosso dato il fatto che la mamma non lo lavava mai, oppure lo lavava troppo, certo. Ma lo lavava in maniera del tutto impropria. Bisogna dire che adesso le case di massima qualità hanno notevolmente incrementato l'accuratezza, la selezione delle materie prime. E lo stesso però non si può dire per la grande parte dei tessuti. Quello è un problema, basta pensare ad esempio ad alcuni appretti di tipo idealmente positivo che vengono applicati ad esempio su alcuni tessuti che si usano per gli indumenti intimi, che ovviamente danno degli arrossamenti a livello genitale che sono di difficile interpretazione. Uno vede una zona genitale femminile o maschile molto rossa e ovviamente può essere, uno può aver sudato, fatto un viaggio lungo, cioè può essere andato in moto 3 ore, 5 ore, fatto tutti i Balcani in moto, in Grecia eccetera, oppure semplicemente ha una mutanda che contiene 280 sostanze di cui la metà sarebbe dal cromo esavalente, perché sono anche sostanze irritanti, talvolta cancerogene. Quindi come dato visto. Che le mutande non sono, ma no, reggiseni, camicie, maglioni, sì, cappotti, dobbiamo metterle naturali, ecco. O comunque di una certa qualità, e bisogna un po' stare attenti, perché è chiaro, il basso costo attira l'acquisto, ma stare attenti alla qualità. Ecco, insomma, con Skin Eco anche stiamo la pelle, facendo un'indagine. La pelle adesso. Vuole dire la sua. Sì, ecco, esatto. Lasciamola brava. Parlare. Se e certe lamenta... volte, se si irrita la pelle, il problema non è della pelle. Anzi, la pelle è perfettamente sana e semplicemente dice ora basta. Ora basta. Ma adesso andiamo proprio sulla pelle dei nostri ascoltatori. Abbiamo Filippo che ci chiama da Napoli. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Quanto sole si è preso lei, Filippo? Oddio, forse più negli anni addietro, ne ho preso un po' troppo in abbondanza. Adesso, anzi, per cercare di non fare gli stessi sbagli, ci faccio attenzione, faccio i controlli come sarebbe il caso di fare per ciascuno di noi. Niente, io ho due domande. Una in verità mi si è aggiunta e che volevo... Intanto chi aspettava? Sì, ma ti ascoltavo, ha a che fare con un bimbo che la settimana prossima fa un anno, quindi ero attento ancora di più alle sue cose che ancora più alle mie, insomma. Allora, riguardo alla domanda che volevo fare, diciamo, sui miei nei, è utile usare dei prodotti locali, tipo anche quegli stick a protezione totale, giusto per andare proprio sul neo stesso e magari... Quindi usare la protezione sul neo, specifica magari con un prodotto a stick. Fermo restando che non vuol dire rimanere poi a mezzogiorno certo. Sul sole. Bravo. Dico, accanto a una giusta prevenzione, magari concentrarsi in modo particolare sui nei. Io così almeno ho fatto, volevo capire se professor Gelmetti, sì. Filippo ha fatto bene? Sì, diciamo che non è sbagliato, anche se quando uno anche ha tanti nei occupano sì e no un millesimo della superficie cutanea, quindi proteggere un millesimo e lasciare il 999 scoperti ovviamente non ha senso. Sì, giusto proteggere i nevi, ma giusto proteggere anche i nostri asset che rimangono, visto che siamo in ambito di salute. Quindi comunque se i nevi vengono sì, protetti di no, più anche meglio, perché no? se c'è un certo tipo di predisposizione sia ad avere nevi sia avere noi sappiamo oggi che certi chiamiamole degenerazioni sono anche costituzionalmente determinate, per cui chi ha tanti nei, soprattutto tanti nei, conviene che si protegga tutto o comunque che stia meno al sole. Filippo, avevo una seconda domanda, ma rapida, forse non so se è ancora in linea. Filippo. Grazie, sì, ci sono. Rapido. Vada. Riguardo all'allergia dei bambini di cui parlavo, adesso mi sfugge la dottoressa Serri? La dermatite atopica. La dermatite, perfetto. Chiaramente escluse cause che possono essere legate ad intolleranze che stiamo testando man mano che il bimbo cresce, tipo anche quella all'uovo, quella sì. al latte. Filippo, veloce? Sì, ci si può tranquillizzare e magari pure quando compare, non preoccuparsi più di tanto quando si sono andate a discutere cose più gravi. Quindi se il bambino magari presenta ancora qualche sintomo, pensare che possa essere legato alla crescita e non farsene troppo un problema. Sì, allora, le allergie alimentari sono solamente un 10% di questi bambini atopici. In ogni caso, per dare una notizia scontata per gli esperti, ma insomma sempre interessante, è che nel 90% dei casi entro 2-3 anni tendono a ridursi spontaneamente, anche se ci sono. Se poi non ci sono, vanno indagati ovviamente soprattutto i pollini, i quali invece sono stagionali. Andiamo a Simonetta che ci chiama da Livorno, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per avermi chiamato. La mia domanda è questa, mia figlia, prendendo il sole naturalmente, è venuto un sopralabbro superiore più scuro, come fossero dei baffetti, sì. Però è la pelle perché è più scura. Quanti anni ha, mi scusi Simonetta, la sua ragazza? 28 anni. Dottoressa Serri? È il melasma. Il melasma sono quelle chiazze che in gravidanza, quando compaiono in gravidanza, si chiamano cloasma oppure negli altre situazioni melasma. Sono proprio delle iperpigmentazioni, quindi chiazze più scure, dove lo stimolo dei raggi luce, quindi non solamente dei raggi che ci sono d'estate al mare, ma proprio i raggi luce, gli UVA che ci sono tutto l'anno, porta questo accumulo di pigmento, le cellule che producono la melanina impazziscono, lavorano troppo e questo succede in certe sedi del volto delle donne, soprattutto la fronte, il baffo è una tipica zona, la zona del baffo, le guance sono simmetrici. C'è un sistema efficacissimo per farle andare via, però è noiosissimo e consiste in una protezione dalla luce continua e costante per 18 mesi. Quindi non stimolare più il melanocita a produrre pigmento, far sedare questi melanociti iperattivi, evitare ogni tipo di irritazione, di infiammazione ulteriore, perché io vedo spessissimo dei peggioramenti dovuti ai trattamenti con acidi e con sostanze che agiscono come irritanti sulla pelle, quindi andarci molto piano, stare molto attenti, farsi seguire dal dermatologo prima di mettersi qualsiasi sostanza schiarente irritante, e mettere più che altro sostanze locali, antiossidanti e fattori protettivi. Quindi in questa situazione, ad esempio, ceretta per baffetti, la ceretta, eccetera, per esempio, assolutamente no. Non, se ci, poi ci si protegge, sì, ma la ceretta, per esempio, mette la pelle in uno stato di leggera infiammazione. Questo stato di infiammazione è quello che poi può scatenare l'iperpigmentazione post-infiammatoria se ci si espone subito dopo ai raggi luce. Certo, c'entrano anche ormoni, farmaci che si prendono, talvolta anche lo stress può peggiorare la situazione delle iperpigmentazioni, ma le infiammazioni locali sono tra i più frequenti motivi di oggi. Allora abbiamo Carmine che ci chiama da Prato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Io premetto che sono di pelle chiara, sì. Però d'inverno e durante l'anno ho delle macchioline rossastre nella parte, diciamo, ascellare, che prendendo il sole d'estate sembra che mi spariscono, però poi appaiono bianche, biancastre. Ecco, questo io volevo sapere. Che cosa può essere, Carmine? Che cosa si può fare? Professor Gelmetti. Alle ascelle o anche a livello dell'inguine, ad esempio? Sì, anche a livello dell'inguine. E dunque questa qui ci può aveva essere... nascosto questo dettaglio. Allora, può essere una forma di dermatite seborroica delle pieghe, che certe volte può anche colpire le zone retroauricolari o i lati del naso. Però le ascelle e l'inguine possono essere interessate. Ovviamente la diagnosi così telefonica non è necessariamente precisa, però quando la zona rossa preestiva lascia il campo a una chiazza più chiara, ci ritroviamo nella condizione dell'ascoltatore di prima, dove quando c'è una dermatite infiammatoria col sole risponde bene, in parte quindi guarisce, però evidentemente squamando di più rispetto alla pelle che ha squamato di meno, quella sana ovviamente. C'è questa differenza. C'è questa differenza. Professor Gelmetti, anche dottoressa Serri, io vorrei in chiusura di trasmissione, poi parleremo di frittura, di regole di una frittura perfetta, vorrei chiedere a voi come mantenere i benefici, un consiglio, perché l'estate, insomma, tutto sommato in qualche modo ci ha fatto bene, anche se la pelle magari adesso appare chiazze o ritornano le magagne che il sole aveva spento. Professor Gelmetti, un consiglio da lei e uno dalla dottoressa Serri. Ah, il consiglio è che ci sono purtroppo molte malattie che per fortuna rispondono bene al sole, abbiamo detto dermatite, psoriasi, dermatite seborroica, eccetera, ora che sono una percentuale rilevante dei nostri ascoltatori. Allora, in questo caso è giusto approfittare del fatto che stiamo in Italia per prenderlo, quindi io direi che due esposizioni settimanali, per chi può farlo, però almeno una weekend si può farlo, siano più che corrette. Basta dire che per mantenere i livelli corretti di vitamina D, che è importante per lo sviluppo, ma è importante anche come effetto benefico per l'organismo, come anticancro, bastano 10 minuti. Quindi 10 minuti noi abbiamo due vantaggi: ci facciamo la vitamina D e manteniamo i benefici della stagione. Due piccioni con una fava, dottoressa Serri. Il mio consiglio è di assolutamente mai preoccuparsi delle cose, ma occuparsi delle cose. È il motto di essere benessere, ecco, che è stato preso anche dalla dottoressa Serri, e questo mi fa molto piacere. È il motto di essere benessere, sì. Fantastico. Occupiamoci, ecco, occupiamoci per non preoccupiamoci, perché proprio veramente il mantenimento dei benefici quindi parte anche dalla testa. Occupandoci della nostra pelle, occupandoci del nostro benessere in toto, ma senza esagerare con le preoccupazioni. Certo. Io posso consigliare, siamo in settembre, non c'entra apparentemente con la pelle, ma un bel grappolo d'uva tutte le mattine a digiuno aiuta anche la pelle, perché l'uva è un potente antiossidante, anche la buccia dell'uva e anche gli acidi dell'uva sono utili. Lavarsi per bene con sostanze delicate senza eccedere con gli sgrassamenti, con i peeling, se peeling sono, che siano gommage leggeri, magari fatti con la spugnetta, con l'asciugamanino, con sostanze naturali, una o due volte alla settimana con acidi leggeri, idratazione con prodotti cosmetici con non eccessive quantità di oli minerali, cioè vaseline e paraffina, e questo poco a poco lo impareremo, e a poco tutte le aziende cosmetiche produrranno con sempre minori quantità, come dicono anche tutte le regole per l'ambiente, certo, perché i petrolati non sono nemmeno biodegradabili. E poi direi che un'attitudine positiva, occupata e non preoccupata, aiuta anche la nostra pelle, che in fondo è il nostro cervello esterno. Questo mi piace molto. Allora, io ho la professoressa Porrini. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Ordinario di nutrizione umana all'Università di Milano. Allora io le faccio una domanda in chiusura. Mi manda a farmi friggere se io le dico di tornare domani a parlare di frittura? Di tornare domani a parlare di frittura, solita ora? Solita ora? Va bene, parliamo domani. Grazie, perché così chiudo secondo il tempo e quindi non mi tirano le orecchie. Intanto io saluto la dottoressa Serri, che ringrazio per essere stata con noi, il professor Gelmetti, grazie professore. Grazie. Io vi aspetto come sempre domani, se volete con voi portare un amico, a me fa piacere. A domani, buona giornata.